Avventurieri, avete a disposizione solo due remi, quindi dovrete darvi il cambio per condurre l'imbarcazione. La prima coppia di rematori sarà composta da cavaliere e druido. Posizionatevi ai due lati dello schermo. Per remare, trascinate il dito dall'alto verso il basso, mantenendo un ritmo costante che vi verrà suggerito da un suono guida. Pronti? Si parte!